I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la terza puntata della Maschera Bianca, il percorso di riflessione della coordinamenta verso l'8 marzo. E nella prima puntata abbiamo indagato i rapporti, le assonanze tra i concetti di integrazione, quella che questo sistema vuole dai migranti, dai popoli del terzo mondo, e l'emancipazione. Nella seconda puntata abbiamo visto che cosa significhi integrazione nella società capitalista, in particolare in quella neoliberista in cui siamo infilate oggi. Questa terza parte è dedicata all'emancipazione, al concetto di emancipazione, a cosa significhi, da dove venga e perché il neoliberismo ne abbia fatto uno strumento di rafforzamento del suo dominio. Allora, prima di tutto ci teniamo a precisare comunque che noi non siamo certamente contro l'emancipazione. Cioè l'indipendenza economica è importante e anche perché no, anche la gratificazione personale, cioè il fatto di riuscire a fare quello che una vuole, il fatto di partecipare a qualsiasi livello una voglia e una ritenga opportuno a qualsiasi ambito lavorativo, cioè l'emancipazione è un grande strumento. Però diciamo che non vogliamo parlare invece dell'uso che viene fatto dell'emancipazione, di come sia stata trasformata appunto da strumento a fine. E a questo punto lascerei la parola a Noemi, che ci racconta un po' quello che è stato un momento fondante dell'emancipazionismo, e cioè l'impegno delle suffragette. Allora, cominciamo col dire che il termine delle suffragette non è coniato appunto dal movimento femminile, ma è appioppato da un giornalista del Daily Mail di Londra e viene accettato così com'è, anche perché in realtà in quel momento il movimento non si riconosceva come tale, ma pensava semplicemente di essere composto da piccoli gruppi che rivendicavano appunto il suffragio. E quindi questo riconoscimento viene preso come una tappa importante, perché appunto significava che se un giornale di Londra abbastanza rinomato ne parlava come un movimento femminile, allora effettivamente esistevano. Quindi non sono loro che si definiscono come movimento, ma vengono definite tali attraverso appunto la narrazione esterna e maschile. E appunto la composizione iniziale di questo movimento è un movimento di donne borghesi e anglosassoni. Infatti i movimenti più grandi furono quello americano e quello inglese. E tendenzialmente chiedevano esclusivamente il suffragio universale. All'interno ovviamente della rivendicazione del suffragio universale c'era quella del salario parificato. Infatti quando andavano a fare i volantinaggi fuori dalle aziende, tentavano di coinvolgere anche le donne, diciamo, della fascia proletaria, e dicendo appunto che loro non prendevano lo stesso stipendio. Ovviamente però insomma non era un movimento che scardinava la questione di classe. Il movimento americano era di base era pacifista, addirittura per quanto riguarda lo scoppio della guerra Woodrow Wilson chiese a loro di attendere per queste rivendicazioni, visto che c'era qualcosa di più importante, che era la guerra, e bisognava stare vicino alla nazione, allo sforzo che la nazione stava facendo, diciamo, per salvare l'Europa da appunto dal disfacimento. E quindi le donne che componevano, diciamo, il gruppo principale delle suffragette americane in realtà congela la propria protesta che appunto non aveva avuto picchi, diciamo, forti come quella inglese, aspettando appunto la fine del conflitto, perché aveva avuto per l'ennesima volta la promessa che ci sarebbe stata. In realtà nel 1918 cominciano in alcuni stati ad esserci i primi suffragi delle donne, però insomma appunto rivendicazioni basilari e minime. È un movimento appunto che si forma, si dà forza anche grazie al vittimismo, allo scalpore che generano appunto le violenze fatte dagli uomini su questo movimento, sulle donne che lo compongono, sulle donne che vengono narrate appunto nei dibattimenti da queste donne borghesi. Infatti, durante la marcia del 1913, le donne sfilarono a Washington richiedendo sempre appunto il suffragio universale e vennero attaccate in maniera molto violenta da alcuni uomini. Ovviamente lo scalpore che fece la notizia il giorno dopo fu tale da far sì che comunque in qualche modo vennero prese ancora un po' di più in considerazione, ma questo è come funziona, diciamo, la politica e i mass media da sempre, da quando si è innescato questo rapporto, appunto, l'opinione pubblica ne parla come le povere donne che vengono attaccate non possono nemmeno dimostrare. Poi in America la libertà di pensiero è qualcosa che viene sbandierata, non so, come una delle virtù più fondamentali del nuovo mondo, e quindi appunto loro si armano di questa sconfitta utilizzandola a proprio vantaggio. A quel punto qualcuno deve ascoltarle, perché comunque sono state aggredite. Anche questo, diciamo, ha un meccanismo che fa capire che non è un movimento, diciamo, di rivalsa, ma ancora di più, insomma, un movimento borghese che si rifà comunque su basi vittimistiche, su basi comunque di semplice rivendicazione di diritti. Non pretende nulla se non qualcosa che comunque sarebbe arrivato. Lo stesso movimento inglese invece ha differenze. La differenza, diciamo, è minima, ovviamente, perché sempre di movimento di donne borghesi si tratta, non mette in discussione appunto grandi basi teoriche della politica, si rifà semplicemente sul diritto al voto. Diciamo un po' più interessante perché effettivamente le pratiche utilizzate dall'Unione delle Donne, che avevano come leader Emmeline Pankhurst, erano dei sabotaggi, piccole esplosioni, rotture di vetrine, convocazioni senza avvertire appunto l'ordine pubblico, raduni. Quindi diciamo avevano delle modalità un po' più violente, più forti rispetto appunto alle loro cugine americane. Ma anche lì appunto non c'è un reale scardinamento dei ruoli, ma anche lì c'è comunque si proseguono sulla stessa linea delle politiche, tant'è che si chiedono tavoli, incontri. Perché appunto la Pankhurst in un primo momento è abbastanza vicina al Partito Laburista. Quindi, nonostante queste dimostrazioni di piazza fossero un po' più incisive, non fu un movimento radicale, rivoluzionario, come appunto invece poi nel 17 possiamo vedere appunto in Russia anche le donne comunque componevano. Pensiamo un po' alla Kollontaj, comunque tirano fuori delle critiche rispetto al loro ruolo di donna nel movimento un po' più sostanziali, anche se per quanto riguarda la questione nazionalismo, poi vedremo che c'è una forte differenza tra appunto appunto le suffragette borghesi che attendono come in America. Che il governo le ascolti e le chiede intanto di stare buone all'angolo, e invece alcune che a quel punto prendono le distanze da questo movimento di suffragette e decidono che effettivamente non era efficace, non era quella la loro battaglia. Quindi, come dicevamo, entrambi i movimenti, sia americano che inglese, rispondono positivamente alla richiesta dello Stato allo scoppio della Grande Guerra di mettersi da parte per un po', nell'attesa appunto che il conflitto finisca, che tutto sia a posto e che si possa tornare a pensare a, diciamo, altre cose. Però per ora il problema più grande dell'America è la guerra e anche dell'Inghilterra, ovviamente. Quindi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale determinò la vera grande rottura del movimento tra nazionalisti che misero in disparte la lotta per l'emancipazione in favore appunto della patria, e quindi senza mettere in discussione il lavoro di cura e il ruolo che le donne rappresentavano. Ruolo che le donne rappresentano, che poi con la guerra in realtà ovviamente prende ancora più importanza, perché appunto le donne sono costrette a dover sostituire all'interno comunque del circuito del lavoro gli uomini, quindi aggravarsi ancora di più dello sfruttamento e dell'oppressione. Le rivendicazioni riguardavano esclusivamente il riconoscimento del voto, quindi per questo insomma si poteva attendere, anche perché appunto un periodo bellico, diciamo, l'espletazione del suffragio non è richiesta. Qui c'è la grande rottura, perché in realtà le donne che componevano il movimento delle suffragette, essendo borghese, ovviamente decide comunque di appoggiare e di aspettare che finisca la guerra. Questo lo vediamo in realtà in tutti i partiti, cioè nel senso l'appoggio tra il neutralismo e invece l'azione in guerra. È un problema e un dibattito, diciamo, storico molto importante. Le suffragette non sono da meno, cioè si mettono all'interno di questo dibattito e addirittura interpretano il ruolo proprio da croce rossina. Passiamo il termine, però effettivamente fanno questo, cioè si immolano per la patria. Secondo me è importante un po' parlare dell'esempio inglese, perché nell'esempio inglese, diciamo, c'è questa differenza tra appunto le nazionaliste, invece chi poi il salto di qualità politico lo vede e prova a interpretarlo. La Pankhurst ha tre figlie, a un certo punto, un po' per le dinamiche, perché vengono prese da una delle figlie, dalle due figlie Adela e Silvia, come, diciamo, non so, velleitarie, un po' poco produttive, perché appunto continuare a dar fuoco alla cassetta postale, ai fili o a rompere la vetrina, sono pratiche sicuramente incisive di cui si parla sui giornali, per cui appunto anche l'ordine pubblico le tiene particolarmente in attenzione, però poi sono pratiche vuote, non riescono a intaccare nulla, sono semplicemente mediatiche, se vogliamo usare un po' questo termine. È in realtà un movimento socialdemocratico, quindi appunto tanto di impatto quanto però appunto poi la richiesta di poter stare nei ranghi. Una delle figlie, appunto Silvia, nel momento in cui il movimento dell'Unione prende questa decisione di, diciamo, appoggiare la scelta di entrata in guerra dell'Inghilterra, si dissocia dal movimento, perché non ritiene questa scelta intelligente, e soprattutto non la ritiene in linea con quello che dovrebbero essere le loro rivendicazioni di donne, no? Che cosa fa? Lei decide appunto di unirsi all'inizio col Partito Comunista inglese. Incontra anche Lenin, addirittura litigò con Lenin sulle pratiche da tenere all'interno del del partito e sulla questione femminile. Questo lo vediamo anche vedendo poi gli scritti effettivamente su quello che era la questione femminile e sulle compagne sulle compagne russe, che effettivamente spesso dovettero mettere in secondo piano quello che erano le istanze del protofemminismo, così definito dal punto di vista storico. Però lei era una compagna in quanto appunto nel suo tentativo di trovare appunto un movimento che globalmente prendesse tutti i problemi che avevano le classi, e non solo quello borghese, rivendicazione del voto, ma i problemi dei proletari, la questione di classe, quindi la questione femminista. Tant'è che lei durante il conflitto comunque non si unisce come, diciamo, donna Croce Rossina in aiuto della patria, ma fonda appunto delle associazioni nei quartieri ghetto di Londra, tentando appunto di aiutare le famiglie proprio dei più proletari della città, dando da mangiare o comunque aiutandoli nei bisogni più immediati. Ma poi continua in realtà la sua ricerca appunto provando a stare nel Partito Comunista della Gran Bretagna, al quale però fece ostracismo. Poi negli anni 30, quando appunto emerge il movimento nazista, comincia comunque a fare delle riflessioni sul fatto che i movimenti totalitari in realtà destabilizzavano a loro favore i giochi di potere e non scardinavano in nessun modo le questioni in realtà di classe e le questioni femministe. Quindi si dissocia anche da quel movimento, e questo a sottolineare appunto la sua grande ricerca in realtà di davvero creare un movimento che fosse femminista. Tant'è che fu una delle poche a interessarsi della questione etiope, un po' come facciamo noi quando effettivamente ci mette come femministi, ci chiediamo sempre, no, per quale motivo ci dobbiamo occupare dell'imperialismo, perché in realtà è necessario per una femminista mettere in discussione l'imperialismo e definirsi antiimperialista, perché è una pratica d'oppressione che ci interessa, che ci deve interessare, anzi se non ci interessa in realtà questo può solo che significare che la natura dell'interesse è socialdemocratico e non effettivamente di natura femminista. Tutto questo discorso in realtà poi, a partire da quello che è stato il movimento storico delle suffragette, un po' per e come viene pubblicizzato, quindi da una retorica socialdemocratica attraverso ancora oggi, no, all'uso di film sulla storia appunto dell'inizio del movimento dell'unione delle donne in Inghilterra con le Pankhurst, però viene narrata semplicemente appunto la madre, che è la fondatrice del movimento, che è quella più socialdemocratica, che è quella più conservatrice tra tutte quante, e non viene mai descritto e narrato quello che è, no, un movimento femminista reale, non vengono mai descritte delle figure veramente rivoluzionarie, a meno che non siano funzionali in realtà a quello che è, diciamo, la moda del momento. Insomma, adesso è ripresa un po' questo interesse nei confronti appunto della questione femminile, e quindi probabilmente ci saranno delle produzioni, ci sono state delle produzioni cinematografiche anche rispetto a questo, ma questo perché appunto in realtà il movimento femminile è al soldo della socialdemocrazia e non scardina assolutamente il sistema patriarcale, anzi segue delle forme corporativiste, borghesi e spesso appunto nazionaliste. Ovviamente ora le forme sono cambiate, però c'è sempre questa rivendicazione a un diritto, diciamo, più o meno universale, rivendicabile da chiunque, e la richiesta appunto di riconoscimento da parte dell'istituzione più importante. Però torniamo a chiederci, ovviamente è possibile combattere le istituzioni che ci dovrebbero rappresentare o che ci rappresentano, di distruggere la nostra oppressione, l'oppressione patriarcale, nel momento in cui l'istituzione stessa è una forma di oppressione ed è fondata sul patriarcato, come possiamo chiedere a loro di salvarci con delle leggi di matrice ovviamente patriarcale? Tan solo debí ser por poder coste que lo llevaba del coste que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó la por un tu hijo bien, sartiroteo, hijo bien, en sartiroteo. A questo punto è necessario introdurre l'analisi di un passaggio, cioè di un cambio di paradigma. Il passaggio dal concetto di questione femminile a quello di oppressione di genere. Diciamo che fino agli anni 70 più o meno, ma anche prima, fino alla fine degli anni 60, a cominciare dall'Ottocento, abbiamo visto Noemi che ci ha raccontato delle suffragette, e tutti i partiti che si battevano per la liberazione, per la rivoluzione, che avevano una sensibilità ai diritti, agli oppressi, o che proprio si battevano per gli oppressi, per le classi subalterne, in senso lato. Sì, cioè si accorgevano ed era evidente, non ci voleva un'analisi particolarmente speciale, si battevano ed era evidente per il fatto che le donne erano in condizione di inferiorità all'interno della società e non avevano accesso agli stessi diritti degli uomini, erano in una condizione di evidente subalternità. E quindi esisteva una questione femminile, chiamiamola così, perché questa è la definizione che più si adatta allo spirito di questo tipo di percorso, esisteva una questione femminile da risolvere. Quindi chi era sensibile a miglioramento della società si poneva il problema di fare in modo che le donne acquistassero diritti, avessero uguali diritti e uguali trattamenti e uguale trattamento rispetto agli uomini, e quindi tutti insieme, uomini e donne, avrebbero dovuto battersi per questa ingiustizia palese che attraversava la società. E quindi questa era intesa, era la questione femminile che bisognava risolvere. Alla fine degli anni 60, negli anni 70, c'è un cambio importante di paradigma, cioè dal concetto di questione femminile si passa a quello di oppressione di genere. Com'è che succede questo? Succede attraverso le analisi che fanno alcune teoriche femministe materialiste, soprattutto, ma non solo, anche delle analisi che fa per esempio il gruppo di Daniela Pellegrini qui in Italia già nel 65, che è diverso dal percorso delle femministe materialiste, però ha un approccio che poi attraverso l'autocoscienza, attraverso il separatismo, attraverso l'indagare la situazione dal punto di vista strettamente ancorato all'oppressione che la donna subisce, arriva più o meno a percorsi paralleli e simili. Allora, soprattutto sono comunque le materialiste, le femministe materialiste francesi che ribaltano questo paradigma e riescono a definire in maniera precisa che cosa è l'oppressione delle donne, anzi a definire il concetto di oppressione delle donne. In un articolo pubblicato nel 1970 da Christine Delphi, dal titolo Il nemico principale, l'ennemi principal, il nemico principale, pubblicato nel 1970, che è il primo anno della nascita del movimento di liberazione delle donne in Francia, l'MLF. E in questo articolo viene sancito un passaggio fondamentale nelle riflessioni e nelle teorizzazioni femministe. Infatti Christine Delphi si domanda chi è il nemico principale. Non si identifica né con l'uomo, con la U maiuscola, né con gli uomini in generale. Non è un'essenza, non è un gruppo naturale, è un sistema. Ma non è solo il sistema capitalista, o piuttosto non è principalmente il sistema capitalista. Il nemico principale è quello che chiameremo patriarcato, un sistema autonomo di espropriazione e di dominazione. E infatti da questo 1970 Christine Delphi ha cominciato a fondare la teoria, o più o meno esattamente la teoria politica del patriarcato. Il concetto di oppressione delle donne, il concetto di patriarcato e l'introduzione di un'idea che allora era assolutamente nuova, che definiva il patriarcato come una struttura sociale gerarchica e con una forte gerarchizzazione tra i ruoli sessuati, che rifiutava ogni spiegazione della subordinazione delle donne in termini idealisti, biologici, naturalisti, essenzialisti, no? Ma che si fondava su un materialismo, un'analisi materialista, significava che sono le pratiche sociali materiali che rendono conto della dominazione patriarcale sulle donne. Quindi non è più un problema di mancanza di sensibilità della società, non è più un problema culturale, non è più un problema di diritti, non è più un problema di attenzione, bensì è un problema strutturale, cioè essendo il patriarcato una struttura economica, un modello economico legato a doppio filo con quello capitalista, è necessario un percorso completamente diverso da quello del rivendicare diritti, del rivendicare un'attenzione, del rivendicare una responsabilizzazione della società rispetto alla subordinazione delle donne, perché la subordinazione delle donne è una precisa scelta del sistema capitalista, che usa il sistema patriarcale, questa struttura gerarchica e strutturata sui ruoli sessuati precisamente definiti, che gli è praticamente funzionale proprio allo scopo di sfruttare i soggetti messi al lavoro. Quindi il paradigma è completamente ribaltato. In questo senso, quindi, il maschio assume un connotato di dominante e la donna un connotato di dominata, proprio dall'analisi di una struttura gerarchicamente impostata, che quindi deve essere scardinata, ma per scardinare questa struttura bisogna analizzarla nel suo funzionamento e capire le radici e come si muove e come si la usa il capitale e come poter fare per scardinarla. Vi abbiamo detto del femminismo materialista francese, che ha ribaltato l'impostazione e i riferimenti rispetto alla lotta di liberazione delle donne, e infatti da questo momento in poi si chiama lotta di liberazione, no? Il movimento femminista francese si chiama movimento di liberazione, quindi non si tratta più di emanciparsi, si tratta di liberarsi, che è un'altra cosa. Comunque ci fa piacere leggervi anche un passaggio di Daniela Pellegrini del 1965, in pratica, che abbiamo preso da Una donna di troppo, uno dei suoi, il suo primo libro, che è di qualche anno fa, e un passaggio anche questo illuminante a modo suo, no? Perché dice, e parla di ricerca di un metodo. Esistono in Italia e all'estero numerose associazioni e movimenti femminili che si interessano ai problemi della donna e alla sua emancipazione. La caratteristica comune di tali associazioni è quella di agire per l'istituzione di particolari accorgimenti pratici al fine di inserire le donne nella società, così come è costituita nel momento in cui essa agisce. Da una parte, cioè, l'azione di tali associazioni intende liberare la donna dall'impasse dei compiti femminili che la limitano nell'azione extrafamiliare, dall'altra pretende per lei un trattamento di favore, appunto perché nel momento presente le impasse non sono superate e anzi sono riconosciute sostanziali e inscindibili dell'essere femmina. E già quindi anche Daniela nel 65 parla criticamente a tutto campo del concetto di integrazione, nella società del capitale, nella società, lei la chiama, mentre Christine Delphi la chiama la società del capitale e parla dell'anime principale e del patriarcato, Daniela parla della società maschile, no? Però sostanzialmente gli scenari che si aprono sono tutti e due di ricerca di liberazione, no? Per esempio, un altro passaggio di Daniela dice: se si accetta il metodo dell'integrazione, vuol dire che si accetta che il processo evolutivo dell'emancipazione si inserisca nell'attuale tipo di società. Un modo questo, inoltre, di confermare valida anche per la donna la sua scelta culturale complessiva. Quindi riteniamo che sia assolutamente indispensabile recuperare l'analisi di che cos'è il patriarcato, recuperare l'analisi della struttura di questa società e di come questa struttura sociale usa l'organizzazione gerarchica e sesso divisa per ruoli sessuati del patriarcato ai suoi fini e con le sue modalità. Perché diciamo con le sue modalità? Perché la società neoliberista ha assunto tutta una serie di concetti in maniera particolare, tra cui tra questi concetti anche quello di emancipazione, no? Cioè, con l'emancipazione usata come mezzo di promozione personale e non come strumento di un percorso articolato di liberazione, è successo che le donne che ricoprono un ruolo nelle istituzioni, ma anche quelle che a vario titolo si identificano nei meccanismi di questa società, le donne in carriera, che credono nella meritocrazia, nell'autorità, nella gerarchia, quelle in divisa che lavorano nelle istituzioni totali, nel controllo, quelle che usano la professionalità per contribuire all'assoggettamento in senso lato delle personalità, per esempio cosiddette devianti, non omologate, refrattarie, no? Questa società, le esperte del comportamento, ma anche tutte quelle che lavorano in maniera attiva e collaborativa nei media, gli intellettuali, gli insegnanti. Sì, sempre che assumano e credano nei valori di questa società, nella scala di valori neoliberista, si prestano a essere veicolo privilegiato del pensiero unico dominante e perpetuano così l'oppressione su tutte le altre donne. Oltretutto portano avanti dei concetti come quello della non violenza e della legalità. Noi le abbiamo chiamate le vestali della legalità e le prefiche della non violenza, no? Perché si prestano a piangere ogni qualvolta i subalterni fanno delle azioni cosiddette violente, o a esprimersi in tutela della legalità come se non sapessimo che cos'è la legalità, cosa sono le leggi, che non sono altro che l'espressione di un rapporto di forza e quindi della classe al potere, no? Le cosiddette democrazie occidentali hanno impostato un meccanismo tanto perverso quanto però in questo momento vincente. Attraverso la strumentalizzazione dei diritti umani, delle donne, delle diversità, sia sul fronte interno che su quello esterno. Sul fronte interno, per esempio, vengono elevati a rappresentanti delle donne, delle differenze sessuali, di quelle etniche, coloro che provengono da questi ambiti oppressi e si prestano, in cambio della promozione sociale e personale, a perpetuare l'oppressione di tutti gli ambiti da cui provengono. Presentano questo sistema come democratico e quindi lo rafforzano e avallano la presunta democraticità, e quindi attraverso avallando la presunta democraticità avallano la persecuzione di tutte quelle che non sono disposte a vendersi, di tutte quelle che non sono disposte a subire passivamente, di tutte quelle e di tutti quelli che si ribellano, no? ma per l'analisi nello specifico di come l'emancipazione viene usata, di come il percorso emancipazionista da strumento di liberazione è diventato fine a se stesso e quindi è diventato un mezzo per rafforzare il dominio e anche per incentivare la svendita delle donne al sistema di potere, alle istituzioni, vogliamo parlarne nella prossima puntata, nella quarta parte, che sarà dedicata proprio all'analisi del presente. Ciao!